Radio Azione. Frequenze di azioni in diretta. Radio Azione. Marinetti, back from Abyssinia. Just you and me, my darling, we know what it really means. Let's do it, let's do it, let's do it, ah da da. L'area nord della NAD 013 è un luogo costruito appositamente per ospitare fabbriche, termovalorizzatore e dove vengono seppelliti i rifiuti tossici provenienti da ogni parte della nazione. In mezzo a tutto ciò vi sono piccoli agglomerati di abitazioni. Le forme estetiche delle costruzioni sono molto affine a quelle per cui è destinata quella zona. Una periferia dove trarrebbe beneficio creativo qualche band industrial. Il grigio del cemento piantato nel verde acido delle campagne, l'odore acre delle ciminiere che si innalzano nel cielo sempre più grigio, o il sole sempre color ruggine che si riflette sugli scheletri delle strutture in acciaio, i rumori incessanti delle fabbriche che musicano in sottofondo le intere giornate, le strade deserte e i bambini che giocano in capannoni dismessi. Che una catastrofe prima o poi sarebbe accaduta era solo questione di tempo. Tutti sapevano, dai costruttori ai proprietari alla popolazione. Tutti sapevano, ma tutti tacevano. L'esplosione alla centrale del termovalorizzatore sarebbe partita dall'errore di un gruppo di operai, alla decima ora di lavoro giornaliero e senza pause, che stava lavorando al quadro elettrico della struttura. Se la centrale si fosse trovata in un luogo più isolato, l'esplosione non avrebbe avuto le dimensioni di una catastrofe, ma purtroppo era stata costruita in mezzo a due raffinerie. L'area nord era diventata un inferno, non c'era una zona priva di fiamme ed anche i vigili del fuoco non erano riusciti ad entrare. La popolazione non aveva avuto scampo, erano tutti morti all'istante. Chi era sopravvissuto all'esplosione era morto carbonizzato. Il cerchio di fuoco stava allargando il suo diametro di ora in ora e per fermarlo si doveva solo operare dall'alto, ma ci sarebbe voluto una flotta di almeno un centinaio di elicotteri a disposizione e a disposizione ce n'erano solamente una ventina. Il palazzo governativo della NAD 013, allertato, si andava riempendo man mano con il passare delle ore di tutte le autorità della metropoli. Il primo ad arrivare era stato il generale dell'esercito Tarspok, Navig. Dopo il Natale Nero avevano pensato che la catastrofe sarebbe stata causata da un attacco di refrattario al termovalorizzatore. L'esplosione, proprio per le sue grandi dimensioni, si era sentita fino al centro di NAD 013. Galeria aveva vibrato per qualche istante, mettendo in allarme tutta l'unità operativa dei Tarspok, i quali più che un attacco avevano pensato ad una scossa di terremoto. I prigionieri avevano iniziato ad inveire contro gli uomini topo perché ovviamente erano terrorizzati dal pensiero di rimanere rinchiusi e ulteriormente in trappola se fosse arrivata una nuova scossa più forte. La voce di Lerit dagli altoparlanti cercava di rassicurare i prigionieri dicendo che non c'era stato nessun terremoto, ma coscientemente il viscido topo gigante aveva cercato di spostare la rabbia dei prigionieri contro i refrattarios. Aveva detto loro che era avvenuta un'esplosione a causa di un attacco a galleria e che i ribelli pensavano solo a distruggere il carcere fognario, fregandosene se durante la distruzione stessa si sarebbe messa in pericolo la vita dei prigionieri. Valéry, ascoltate le infamie, inizia ad inveire contro l'Erit, che può ascoltare attraverso i microfoni panoramici disposti lungo il tunnel fognario. Pezzo di merda, questi non sono i refrattarios. I miei compagni non mettono in pericolo né la nostra vita né tantomeno quella di nessuna persona che non sia un servo dello Stato come te. Vedrai un giorno, surcio di merda, vedrai. Sarai fatto allo spiedo sui cancelli delle nostre celle. Qualche prigioniere applaude e si unisce alle minacce di Valéry all'Erit. Qualcun altro invece inveisce contro i refrattarios e qualcun altro ancora urla di finirla con le minacce e di tornare alla calma per il quieto vivere, attirando verso di sé le offese e le minacce degli altri prigionieri ancora. È una bogia galleria e i Darkspawn se ne restano fermi agli inizi di ogni tunnel aspettando ordini dall'Erit. Nel frattempo, a Palazzo Governativo, dopo una lunga riunione, si è arrivata ad una decisione. È arrivata la notizia che la catastrofe è stata causata da un errore degli operai. Ma la diffusione di una tale notizia tra la popolazione sarebbe la scintilla per una rivolta generale. I governatori, come in ogni rivolta degna di tale nome, rischierebbero di perdere potere e soprattutto la vita. Allora bisogna spostare l'attenzione su altro. In accordo con i media Tarspok, alla popolazione si deve far credere che la causa della catastrofe è dovuta ad un attacco dei refrattari al termovalorizzatore. Per dare un segnale forte, immediato e di sicurezza alla popolazione, Navig fa partire le perquisizioni nelle case di tutti i ribelli. Ogni gruppo di Tarspok è accompagnato dalle telecamere dei media Tarspok che riprendono tutta l'operazione, in modo che la popolazione si senta ancora più sicura guardando le immagini delle incursioni. L'intera operazione è mandata in diretta TV, con il multiscreen che mostra ogni incursione. Navig è seduto davanti al suo televisore LCD grosso quanto una libreria, alla trasmittente in mano ed è pronto a dare via alle incursioni. Gruppo 1, presenti. Gruppo 2, presenti. E così via per gli altri 8 gruppi. La voce di un media Tarspok crea la suspense e l'adrenalina giusta nei secondi precedenti all'incursione. Navig alza in una mano un bicchiere di prosecco in segno di augurio e con l'altra attiva il microfono della trasmittente. Ora! Tempo 2 secondi e le immagini del multiscreen mostrano le porte delle case dei refrattari sfondate a calci. Gli uomini dopo entrano nelle case seguite dalle telecamere. Bastò poco più di un attimo e la gioia di Navig lascia spazio agli occhi persi nel vuoto e la faccia paralizzata. Il bicchiere di prosecco sembra incollato alle labbra. Dei refrattarios, nemmeno l'ombra. Burned rubber and urine. Time for debates is over. some point before we got here. Is this hyper real? Is this hyper real? Mutation! Radiazione lunedì 3 marzo, diretta d'azione con controinformazione, ma soprattutto lettura. Stiamo leggendo Tortuga di Valerio Evangelisti. Siamo arrivati quasi alla fine, altre 3 letture a meno, e penso che portiamo a termine anche quest'altro libro sui pirati dopo Veracruz. Ricordo che venerdì scorso la diretta d'azione non c'è stata per miei motivi di salute, quindi ho ritardato pure, non ho messo l'annuncio, ma comunque non fa niente, si può fare. Quindi oggi, come dicevo, contro formazione lettura e musica. Ricordo gli indirizzi utili per radiazione @distici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati o materiale che può essere messo nella pagina download di radiazione, come giornali online, CD, manifesti e quant'altro. Per la radio invece, sul sito di radiazione, radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata quotidianamente e dove da qualche giorno la potete leggere in 2 lingue. Ovviamente gli italiani penso che se ne ci capiranno poco, ma Radiazione ora si è sdoppiato, oltre ad essere quello di sempre in lingua italiana, c'ha anche una sezione serbo-croata, portata avanti dalla compagna che fino a qualche mese fa ci ha tenuto compagnia nelle dirette d'azione del venerdì. Per la radio la state ascoltando, altrimenti c'è il lettore sulla sidebar dove accenderla ogni lunedì e ogni venerdì dalle 17 alle 19, poi orario molto variabile di chiusura, alle 17 si inizia, alle 19 non si sa se si finisce. Allora, dopo detto tutto per quanto riguarda gli indirizzi utili, ci ascoltiamo un brano di Anne-James Chaton ed Andy Moore, da ovest ad est, in francese il titolo non lo so pronunciare, tu lo sai pronunciare? No, nemmeno, quindi sicuro è da ovest ad est, quindi ci ascoltiamo questo brano e poi dopo si parte subito con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Direct. octobre, départ de nord, 51 degrés, 30 minutes, 30 secondes, ouest, 0 degrés, 7 minutes, 31 secondes. Le 3 octobre, passage par nord, 48 degrés, 51 minutes, 12 secondes, est, 2 degrés, 20 minutes, 55 secondes. Le 4 octobre, traverse le tunnel nord, 45 degrés, 12 minutes, 0 secondes, est, 6 degrés, 40 minutes, 0 secondes. Le 5, arrivé à nord, 40 degrés, 37 minutes, 39 secondes, est, 17 degrés, 56 minutes, 12 secondes. Le 6, embarquement sur le Mongolia, destination de nord, 19 degrés, 0 minutes, 51 secondes, est, 72 degrés, 50 minutes, 52 secondes. Le 13, passage devant la ceinture des murailles sud, 20 degrés, 13 minutes, 8 secondes, est, 57 degrés, 29 minutes, 45 secondes. Le lendemain, en vue de nord, 12 degrés, 35 minutes, 0 secondes, est, 43 degrés, 25 minutes, 0 secondes. Le 14, escale à nord, 12 degrés, 47 minutes, 12 secondes, est, 44 degrés, 58 minutes, 44 secondes. Dans l'après-midi, cap au nord-ouest de la rade nord, 12 degrés, 46 minutes, 46 secondes, est, 45 degrés, 2 minutes, 12 secondes. Le 14 au soir, arrivé à nord, 12 degrés, 46 minutes, 46 secondes, est, 45 degrés, 2 minutes, 12 secondes. Le 15, départ en direction de nord, 19 degrés, 0 minutes, 51 secondes, est, 72 degrés, 50 minutes, 52 secondes. Le 19, navigation en vue des îles nord, 18 degrés, 53 minutes, 18 secondes, est, 72 degrés, 49 minutes, 17 secondes. Le 20 octobre, départ de nord, 19 degrés, 0 minutes, 51 secondes, est, 72 degrés, 50 minutes, 52 secondes. Le lendemain, traverse le pays nord, 24 degrés, 50 minutes, 38 secondes, est, 86 degrés, 14 minutes, 30 secondes. Le 21, poursuite vers la capitale nord, 26 degrés, 1 minute, 37 secondes, est, 81 degrés, 59 minutes, 23 secondes. Le matin, en vue du royaume nord, 18 degrés, 10 minutes, 0 secondes, est, 67 degrés, 55 minutes, 0 secondes. À midi, lumière à la station nord, 19 degrés, 18 minutes, 16 secondes, est, 84 degrés, 47 minutes, 34 secondes. Après le déjeuner, départ pour nord, 24 degrés, 57 minutes, 36 secondes, est, 87 degrés, 50 minutes, 25 secondes. Le soir, arrivé sur le territoire nord, 24 degrés, 50 minutes, 38 secondes, est, 86 degrés, 14 minutes, 30 secondes, et de nord, 14 degrés, 40 minutes, 45 secondes, est, 78 degrés, 21 minutes, 40 secondes. À 6 heures du matin, escalade nord, 25 degrés, 27 minutes, 0 secondes, est, 80 degrés, 51 minutes, 0 secondes. Puis route vers nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes, est, 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. Le lendemain, départ de nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes, est, 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. Traverse le pays de nord, 25 degrés, 11 minutes, 0 secondes, est, 85 degrés, 31 minutes, 0 secondes. Le soir, en midi fort, nord, 25 degrés, 8 minutes, 0 secondes, est, 89 degrés, 57 minutes, 0 secondes. Le jour d'après, départ de la ville nord, 25 degrés, 36 minutes, 0 secondes, est, 85 degrés, 7 minutes, 0 secondes. À 20 000 miles au sud-est de nord, 25 degrés, 19 minutes, 0 secondes, est, 82 degrés, 59 minutes, 0 secondes. Passage à nord, 26 degrés, 42 minutes, 0 secondes. Est, 88 degrés, 26 minutes, 0 secondes. Près de nord, 24 degrés, 11 minutes, 14 secondes. Est, 88 degrés, 16 minutes, 45 secondes. Poursuite de voyage à nord, 23 degrés, 15 minutes, 0 secondes. Est, 87 degrés, 45 minutes, 0 secondes. Nord, 22 degrés, 52 minutes, 9 secondes. Est, 88 degrés, 22 minutes, 38 secondes. Et de nord, 24 degrés, 53 minutes, 0 secondes. Est, 88 degrés, 9 minutes, 0 secondes. Le 26 octobre à 7h du matin, arrivé à nord, 22 degrés, 32 minutes, 0 secondes, est, 88 degrés, 25 minutes, 0 secondes. Le 27 octobre, navigation sur les brasses de nord, 22 degrés, 34 minutes, 11 secondes, est, 88 degrés, 22 minutes, 11 secondes. Passage au large de nord, 12 degrés, 30 minutes, 0 secondes, est, 92 degrés, 45 minutes, 0 secondes. En vue des montagnes nord, 13 degrés, 9 minutes, 0 secondes, est, 92 degrés, 1 minute, 0 secondes. Avant d'atteindre le détroit nord, 20 degrés, 24 minutes, 0 secondes, est, 72 degrés, 18 minutes, 0 secondes. Marzo 2014, ritorniamo a parlare di pirati qui a mezzogiorno meridione del nostro paese e anche dell'Europa splende il sole clamorosamente, ci poniamo qualche dubbio. Di lunedì non è mai il sole, è un anno quasi che non lo vedevamo ogni lunedì anche d'estate, ma questo non ci preoccupa, ci preoccupano invece i venti di guerra che spirano sull'Europa e non ci preoccupano per questioni di pacifismo o di non pacifismo, ma perché l'industria bellica si rimette in moto e farà fare ancora decisamente molti profitti a coloro che vendono e spacciano strumenti di morte. Ma noi invece ritorniamo nei Caraibi del XVII secolo, eravamo arrivati con i fratelli della filibusta che si vedevano alla tortuga e mettevano i cosiddetti pontini sulle i con il nuovo governatore arrivato a calmare l'istinto predatorio dei fratelli della costa. E abbiamo anche lasciato, diciamo, il protagonista della nostra narrazione, che è questo ex gesuita Rogério dos Campos, arruolato di forza o non di forza a bordo dell'ERD, che è il vascello del comandante de Grammont, grande ammiraglio pirata, detto anche uomo nero, e adesso tutti la varia corte dei miracoli, di bucanieri, di pirati, di neri, di refrattari, diremo noi, si sta mettendo in moto e sono pronti a salpare. E venne finalmente il giorno della partenza. Nel porto di Caiona, o fuori dei suoi contrafforti, in una giornata dell'aprile 1685, calda ma ventilata, oscillavano una ventina di navi, tra brigantini, sloop, golette e maone a vela quadra. L'immersione delle imbarcazioni, malgrado lo scafo leggero, era notevole per via dei ponti sovraffollati di uomini e animali. Altri pirati si sarebbero aggregati ai fratelli della costa alla Isla della Vaca, a sud della Tortuga, provenienti da isolette e cale nascoste disseminate nel Mar dei Caraibi. La voce della spedizione imminente si era diffusa con rapidità, passando di veliero in veliero e di taverna in taverna, e alcuni noti comandanti inglesi da Port Royal avevano mandato a de Grammont i loro auguri. Una flotta così possente non la si vedeva dai tempi di Morgan e della presa di Panama, disse soddisfatto Hubert Macquarie a Rogerio, mentre entrambi si godevano la brezza sul castello di poppa dell'Erdi, in attesa che l'equipaggio fosse imbarcato. Il nostro capitano a Veracruz aveva 17 vascelli, ma quasi tutti di piccola stazza. Questa volta i cannoni non mancano. Servirà l'artiglieria per entrare a Campeche, chiese Rogerio. Non lo so. Dopo 3 saccheggi consecutivi laggiù hanno cominciato a costruire una muraglia destinata a riparare la città, oltre ad un paio di fortezze. Le nostre spie ci hanno detto che la cinta è ancora molto incompleta e che di forti in grado di difendersi ce n'è al momento uno solo. De Grammont ha fretta di muoversi anche per impedire che gli spagnoli possano trincerarsi dietro i bastoni migliori degli attuali. A fermarsi alla Isla della Vaca non è una perdita di tempo, allora. Macquarie sorrise. È la regola della filibusta fare precedere una spedizione importante a un consesso dei capitani in un luogo raggiungibile da tutti. Si definiscono i dettagli e intanto si procede alle ultime carenature, che alla Tortuga sarebbero impossibili. Inoltre, nella Isla della Vaca ci sono sorgenti d'acqua con cui riempire il barile. Ditemi piuttosto, è vero che siete stato prete? Rogerio, che non si aspettava la domanda, trasalì. Io ero nella compagnia di Gesù, ma spero che il cavaliere de Grammont non ne sia al corrente. No, no, rassicuratevi, rise Macquarie. Il cavaliere non parla mai con nessuno, eccetto ex Kemeling, che sembra avere per voi una grande simpatia. Ve lo chiedevo perché gli uomini, prima di mettersi in mare, gradiscono molto una benedizione. Lontano dagli occhi del capitano, è chiaro. De Grammont crede che in Dio, ma ha scelto il diavolo. E infatti non bestemmia mai Satana, a differenza di Lorenzillo. Ve ne sarete accorto? No, sussurrò Rogerio turbato. Ma per quale motivo? Per quale motivo ha fatto questa scelta? Beh, la sorella che adorava è morta sotto i suoi occhi dopo aver patito le violenze dell'inquisizione messicana nel carcere di San Juan de Ulua. Era ugonotta. De Grammont ha deciso che se Dio stava dalla parte dei preti, il campo giusto era quello opposto. Rogerio rabbrividì. Dunque adora il demonio? Non direi. Adora i beni materiali, come tutte le canaglie della tortuga di Port Royal e di altri covi. Sa che la sua vita sarà breve e che il suo ricordo vivrà quanto più grande sarà la sua spietatezza che avrà esercitato. Non cercate in lui motivazioni profonde o una fede qualsiasi. Ruba, tortura, uccide. All'insegna del puro egoismo e della sopravvivenza giorno per giorno. È questo che fa di lui il migliore dei comandanti. Ma non sono mica le virtù di un condottiero. Beh sì, invece. Il miglior soldato è quello che ha abolito ogni regola morale. Vale per i fratelli della costa come per qualsiasi armigero, o armigero, come si dice, di un esercito europeo. Voi però non siete così, non siete un animale. Rogero ripensò alle paternali stravolte di Delusson. La risposta lo sorprese. Ah sì che lo sono! La filibusta è un modo di riconoscere i propri istinti. Essere squali e voler mangiare, non esiste nient'altro. Agli squali la gloria, ai pescetti la morte. Eppure, voi vi dite cattolico. Ah, lo sono! Per quanto può valere, la Chiesa finora non si è mica comportata in maniera differente. Mangia, uccide o fa uccidere, ingloba ricchezze e perdona. Salvo rare eccezioni che non la cancellano dalla categoria degli squali. Beh, parlate come un ugonotto! Rogero era strozzato dall'indignazione e magari sogghignò. Mio buon gesuita, siete lontano dalla verità. L'unica entità venerata in questi mari è il danaro. Piastre, scudi, pezzi da otto, jacobi e quant'altro, oro e argento, utili a comprare uomini e cose. Se Dio ha voluto questo, il minimo che possiamo fare è ringraziarlo. Ci procura soldi con la sua costante benedizione. E se gli spagnoli soffrono delle nostre angherie, peggio per loro! Il cielo ha scelto un altro partito. Quello di chi, senza tanti infingimenti, punta al malloppo. Un uomo ricco, sia pure per una notte sole, gode della grazia divina. Chi invece rimane spiantato non è chiaramente nei favori del Signore. Altrimenti dovremmo dire che gli schiavi sono santi e chi li possiede in peccato. E la Chiesa non lo dice. Rogerio era nauseato. Lo stesso discorso lo udiva ormai da troppe bocche tra i filibustieri. Aveva creduto che Delusson fosse un caso isolato di cinismo, ma ora si rendeva conto che la sua filosofia, per metà ugonotta, per metà atea libertina, era condivisa dall'intera fratellanza della costa, forse con l'eccezione di Exkemeling e di qualche altro. Nemmeno i poteri costituiti, emanazione dei grandi imperi europei, vi si sottraevano. Pareva che il nuovo mondo esercitasse una sorta di maleficio sugli spiriti. Buoni cattolici giunti lì diventavano creature avide e fameliche di preda. Se avevano un dio, serviva a legittimare i loro appetiti e le violenze atte a soddisfarli. Rogerio sperò che magari, tanto civile e garbato nei modi, si decidesse a tacere, e fu esaudito. Sui moli, da cui continuavano a staccarsi scialuppe e barcacce dirette ai bastimenti, erano apparse le bande musicali al servizio dei vari capitani. Trovato un posto tra la folla di mogli che salutavano i mariti in partenza, gli schiavi e le frotte di bambini presero a rullare i tamburi e a dar fiato le trombe. Era l'ultimo avviso prima della partenza. E continuarono per mezz'ora almeno. Finalmente dai colli di Caione scesero i capitani. De Grammont, sorretto da Exkemeling, Agrizon, Lasage, Godefroy, Le Bon, Garde, Vigneron, Laurent de Graff, Lorenzio. La calca si aprì per farli passare e li salutò agitando i cappelli o scuotendo i ventagli. I capi della filibusta presero posto con le orchestrine sulle barche dirette ai rispettivi navigli. Rogero si trovò davanti a Henri Duval e il suo sorriso ambiguo. «Che si fa adesso, capo?» Sembrava che volesse sfidarlo a dare l'ordine giusto. Rogero non guardò nemmeno Macari, quanto a Truan non era in vista. Appena il capitano sarà a bordo si ammaina il parrocchetto, poi tutti allargano per salpare con la Margherita. Ciò voleva dire unire alla catena dell'ancora un paranco tirato a braccia per attenuarne la pesantezza. Dato l'ordine, Rogero si rivolse al primo ufficiale. «Dico bene, signore!» Macari strizzò l'occhio. «Dite benissimo, siete un buon nostromo! Ottimo acquisto per De Grammont!» Rogero apprezzò sia il complimento sia l'espressione un po' delusa di Duval. un timore lo prese. Se Duval, ma anche Truan forse, avessero deciso di sbarazzarsi di lui, il sistema sarebbe stato semplice. Bastava che facessero giungere alle orecchie di De Grammont il suo passato di gesuita. Decise di trattarli bene e magari cercare il modo di toglierli di mezzo prima che loro potessero danneggiarlo. Sorrise a Duval in maniera che sperò apparisse spontanea. «Ti trovi bene qui sull'Erdi?» «Oh sì, devi vedere i mozzi, dei boccioli biondi e dalla pelle bianchissima, immagino il candore del loro culetto. Non ci si annoierà a bordo, le puttane della tortuga sfondate e tutti i buchi non mancheranno a nessuno.» Rogerio simulò impassibilità. Non so se il cavaliere De Grammont tolleri comportamenti immorali sulla sua nave. «Beh, quanto a immoralità, lui ha altro a cui pensare», sghignazzò Duval. «E tu sai a chi alludo?» Rogerio fu morso dall'angoscia, anche se la trattenne dentro. Da quando aveva condotto a bordo la schiava e l'aveva sistemata in una cameretta adiacente al quadrato degli ufficiali, non gli era stato possibile rivederla. Sarebbe stato certo un suo diritto, quale compare d'anello del defunto Pepe Canseco. Lei era divenuta automaticamente la sua promessa sposa. Rogerio sperava di far valere quella regola alla prima occasione, anche contro eventuali fregole del capitano. Tra i fratelli della costa valevano le leggi accettate, non il grado, gli veniva ripetuto di continuo. In realtà, né Macari né gli altri gli avevano impedito di scendere a fare visita alla prigioniera africana. Era stato lui ad astenersi dal chiederlo, tremendo un rifiuto secco e un rimprovero. Aveva solo badato a far portare alla schiava i cibi migliori, magari rinunciando alla propria razione. Legumi freschi, prosciutto di cinghiale, fette di manzo. Teneva per sé gallette aringhe sotto sale, un sacrificio, in vista dell'ufficializzazione del matrimonio che al momento opportuno avrebbe preteso. Intanto era apparso Truong, che sembrava leggermente ubriaco. Era malfermo sulle gambe e chiese al suo diretto superiore, ignorando i sottufficiali: «Avete ordini per me, signor Macari?» «Uno solo», rispose rigido l'interpellato. «Andate a dormire a smaltire la sbornia. Vi voglio sul ponte tra un'ora, fresco come una rosa, altrimenti vi faccio fare un giro di chiglia.» Macari alludeva ad una delle punizioni più terribili usate dalle marine del mondo intero. Chi ne era colpito era gettato in acqua, legato ai polsi da due cavi, e doveva passare sotto la chiglia della nave da babordo a tribordo o viceversa. Nei casi più fortunati ne usciva mezzo annegato, due volte su tre invece riemergeva annegato del tutto, oppure, se si era a largo, mutilato dagli squali. Scoppi di risa accoglievano la riapparizione del cadavere o di un troncone ancora animato privo di qualche membro. Applausi scroscianti salutavano invece chi si salvava e da quel momento considerato con rispetto. Era una specie di giudizio di Dio. «Vado subito a riposarmi», balbettò Truman spaventato, e prima di scendere sotto coperta inciampò ripetutamente. Anche Duval si allontanò. Rogerio osservò i pirati che si stavano inerpicando sul brigantino, tipi duri, più militareschi di quelli che aveva visto sul Neptuno o sul Conqueror, vestiti della stessa foggia, tricorni logori a volte piumati, marsine di velluto, camicie a trine, lunghi stivali e cinture tintinnanti di sciabole e pistole. Se ne differenziavano per il portamento, meno di noccolato. Dovevano provenire quasi tutti da navi da guerra. I bucanieri erano almeno una dozzina, vestiti di pelli e appesantiti dai loro fucili. Gli schiavi negri erano il doppio, tra maschi e femmine, incatenati, e furono fatti scendere nel gavone di prua destinato ad ospitarli e a farli combattere con gli scarafaggi. Finalmente a bordo salì il cavaliere De Grammont. Rifiutò, messo piede sul ponte, l'appoggio di Exquemeling e, pur zoppicandosi, diresse al quadrato sulle sue gambe. Prima di scomparirvi disse a Macari: «Andiamo!» L'ufficiale interpellò Rogerio: «Sapete già che ordini dare, gesuita?» E allora il portoghese si sgolò, il parrocchetto fu ammenato e le ardì sciolse gli ormeggi. L'argano cigolò, spinto da braccia incitate dalle note lente della bamba. Su ogni vascello della flotta le orchestre suonavano allo stesso ritornello. Una brezza diede al brigantino, che aveva tonneggiato fino all'uscita dell'insenatura di Caione, il giusto abbrivio. I leardi procedette di bollina stretta e uscì dal porto diretto verso sud con le altre navi dietro. Era ormai sera e nel cielo rossastro cominciava ad emergere una luna pallida con il suo seguito di stelle. Quindi abbiamo fatto la prima lettura di Tortuga per quanto riguarda la diretta di oggi, e il brano che abbiamo appena ascoltato sono di Yedult con il brano Glue Your Eyes Together. Ora passiamo alla controinformazione. Si va in Italia con la notizia di qualche giorno fa, che qualcuno, cioè che molti già sanno, quella per quanto riguarda le perquisizioni avvenute e chieste dalla procura di Genova. Non solo perquisizioni, leggiamo un attimo il testo scritto da sottoscritto per la reazione, per un attimo far capire cosa è successo quel giorno. Martedì 25 febbraio, nelle prime ore dell'alba, la procura di Genova è ripartita all'attacco. Da quando si legge dai giornali della Stampa Infame, 11 compagni sono stati perquisiti ed indagati dalla suddetta procura, in particolare dal PM Federico Manotti, con l'accusa di essere coloro che hanno attaccato la caserma dei RIS di Parma il 24 ottobre 2005, in cui, sempre attraverso i pendolari a servizio dello Stato, sarebbero state rinvenute tracce di DNA del compagno Alfredo Cospito sul sacchetto che racchiudeva l'ordigno. I compagni sono indagati anche per essere gli esecutori di altri 4 attacchi, 2 attacchi alle caserme dei carabinieri a Genova nel 2005, il pacco bomba all'ex sindaco di Bologna Sergio Cofferati e l'incendio ad un'auto della Croce Rossa. La procura di Genova aveva chiesto per i compagni indagati anche gli arresti, che non sono stati filmati dal giudice per le indagini preliminari. Nonostante il rifiuto da parte del GIP di firmare gli arresti, PM Federico Manotti non ha perso tempo a rilasciare i nomi dei compagni in pasto alla stampa nazionale, così da crearsi lo scenario adatto per un ricorso in riesame. Stampa Infame che pubblica nomi e veline da parte della procura, in cui qualche compagno viene indicato di essere Archimede Pitagorico o nonna Papera. Le perquisizioni sono avvenute in Liguria, Emilia Romagna, Campania e Toscana, ovviamente tutto questo con l'immancabile collaborazione dei ROS, il reparto operativo speciale dei carabinieri. Appena si saprà qualcosa di più, saranno pubblicati gli aggiornamenti sotto l'articolo che trovate sul sito di Radiazione. Io ho messo anche il documento a cui fa riferimento il PM Federico Manotti quando addita alcuni compagni di essere chi è Archimede Pitagorico o nonna Papera, documento almeno nel movimento anarchico molto conosciuto, in cui c'è una specie di discussione tra i vari compagni che fanno parte della Federazione Anarchica Informale, in cui si parla un po' di tutto, un documento che ha come titolo 4 anni, dicembre 2006. Quindi chi interessa lo può rileggere sul sito di Radiazione, proprio sotto l'articolo che abbiamo appena letto. Ricordo un'altra cosa, che praticamente il sito dei compagni sudamericano Materiale Anarchista non c'è più, viene sostituito con un altro progetto, un altro blog in collaborazione con altri compagni, sia quelli di Materiale Anarchista con altri compagni sempre sudamericano, e si chiama Istinto Selvaghi. Lo potete trovare tra i link che stanno postati sulla pagina del sito di Radiazione. Ora ci ascoltiamo un brano di All Bowman, Brit Original Mix, e poi dopo si torna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. Thank you. Tartaruga. Addio. Ex Kemeling, seduto accanto a Rogerio su fasci di cordami, durante il pranzo mattutino lo rassicurò. Il capitano per il momento non pensa minimamente alla vostra bella. La gotta lo fa soffrire molto ed è concentrato sulla spedizione. «Quella donna mi spetta», rispose il portoghese agitando la scodella di metallo piena di riso troppo bollito, di carne salata e di rondelle di banana arrosto. Lo stesso cibo che nel quadrato ufficiale stava mangiando De Grammont, la cui prima e più abbondante porzione, per tradizione marinaresca, era servita al nostro uomo. «Ero legato a Pepe Canseco da un patto d'anello, lo sanno tutti, perché dunque non posso nemmeno vedere la mia futura sposa?» Ex Kemeling lo osservò con vago compatimento. «Perché in mare è proibito avvicinare le donne, schiave incluse, lo sapete bene. Però il capitano può farlo!» «Lui sì!» «Ma non lo fa, e se fossi in voi mi accontenterei!» A Rogerio era passato l'appetito, si accostò all'impavesata e versò in mare il contenuto della scodella. Alcuni gabbiani ne afferrarono dei bocconi in volo, banchi di pesci argentati sotto il timone si contesero il resto. Rogerio tornò al suo posto e vuotò in due sorsi la mezza razione di rum cui aveva diritto. «Voglio sposare la negra, le leggi dei fratelli della costa sono dalla mia parte!» «Ditemi una cosa, gesuita!» mormorò Xkemeling sorridente. «Sì?» «Se non ci avesse pensato De Grammont attraverso Macari e Adri Sezon, Pepe Canseco l'avreste ucciso voi, non è vero?» Rogerio si rabbuiò. «Beh, può darsi. Francis Levert, il timoniere, mi ha detto che l'avete interrogato sul suo passato di sicario. Ripeto, può darsi. Sospetto che voi abbiate spinto Pepe Canseco tra le braccia della schiava con l'intenzione di farlo poi fuori e, come compare, prende il posto. Mi inganno, forse?» Questa volta Rogerio non rispose. Ex Kemeling scoppiò a ridere. Posò la scodella vuota e accese la pipa. Rideva ancora al primo sbuffo di fumo. «Ah, quando si accusano i gesuiti di avere una mentalità contorta, non ci si inganna. Ne siete la dimostrazione vivente, amico mio. Adesso che i vostri piani sono saltati, che cos'è che intendete fare?» Benché molto irritato con il chirurgo che pareva leggergli nella mente, Rogerio rispose: «Far valere le regole della filibusta, rivendicare il mio possesso sulla schiava. Non sono norme valide, dato che non sono scritte, le uniche clausole da far valere. Ma poi dove?» «Al Consiglio dei Comandanti, sulla Isla della Vaca. Sono quelle contrattuali, messe nero su bianco. Una mutilazione seria vi favorirebbe, in effetti. Diciamo, la perdita in battaglia del braccio destro oppure di un occhio. De Grammont non potrebbe sottrarsi al patto d'imbarco, sottoscritto da ogni avventuriero. Voi ve la sentite di rischiare tanto?» Istintivamente Rogerio si toccò il braccio come per constatare che fosse al suo posto e rispose d'impeto: «Oh no! È solo una schiava miserabile, con il dorso segnato dalle frustate, non vale un sacrificio!» Ex Kemeling annuì, la pipa in mano. «Esatto, mio giovane amico, guardatevi da pene che rimpiangereste, attendete che il cavaliere De Grammont traga dalla negra ogni sua soddisfazione sempre che il suo stato di salute glielo consenta. Dopo sarà vostra, un po' logora, ma vostra, moglie, amante, ne farete ciò che vorrete.» Dal cassero di poppa giunse la voce irritata di Macari: «Dov'è il nostro uomo, porco d'un diavolo? Ancora a mangiare? Se vuole diventare obeso, fattacci sui! Quando lo getteremo in acqua, gli squali ci ringrazieranno per il piatto prelibato!» Rogerio allora lasciò cadere il boccale di rum ormai vuoto e corse al castello di poppa, salì rapido la biscaglina e fece una sorta di saluto militare. «Agli ordini, primo ufficiale, che c'è di nuovo?» «Che c'è di nuovo?» ripeté Macari come fosse sconcertato. «Ma c'è il vento, imbecille! Dispiegate ogni vela utile, anche le mutande di vostra madre, nel caso improbabile che le portasse!» Rogerio tornò sul ponte e gridò con tutta la potenza che aveva in gola: «Sciogliere le garzette, spiegare ogni vela, volentieri! volentieri nel linguaggio marinaresco significava in fretta. La coperta delle ardì fu un groviglio d'uomini intenti alle manovre. I gabbieri, ammassati in cima agli alberi, sciolsero le vele gonfiate dagli effluvi profumati del libeccio. Ci si allontanava dalla tortuga, fino a quel momento rimasta visibile in lontananza. La flotta veleggiante tra i banchi di corallo seguiva il brigantino di Grammont. Farlo navigare tra gli scogli, bassi fondali e secche, era una grossa responsabilità. E ricadeva sulle spalle di Ruggero. Il nostromo si mise a prua e, abbracciato al bonpresso, cominciò a gridare al timoniere: 2 gradi a babbordo, 1 a tribordo, adesso barra sotto, orza a distesa! Gli occhi sul fondale, non si accorse della figura nera che si era portata al suo fianco e quando alzò lo sguardo trasalì. Era il cavaliere di Grammont. Continuate pure, nostromo, disse il capitano. State dimostrando una grande perizia. Ruggero non poté fare a meno di deglutire. Siamo già fuori dai coralli, signore. Da questo momento la flotta può proseguire a vele spiegate. Abbiamo il vento contro, però è questione di un attimo e l'avremo a favore. Già. De Grammont aveva un'espressione più malinconica del consueto. Si appoggiò anche lui al bonpresso, ma per guardare indietro, verso la tortuga minacciosa e verdeggiante. Quell'isola è stata la mia patria per tanto tempo. Ora non so se la vedrò mai più. Temete per l'esito della spedizione a Campeche, mio capitano? No, per niente. Io temo solo la politica. Per quasi 50 anni siamo stati l'asso nella manica della corona francese qui nei Caraibi. Facevamo ciò che la marina di Sua Maestà non poteva fare: incendiare città spagnole, devastare piantagioni, depredare, uccidere. E adesso non abbiamo più l'appoggio di quel re fantoccio. Credo che la nostra avventura giunga al termine. Ruggero elaborò una risposta. Non tutto è perduto, mi capitan. La politica è mutevole e l'umore dei re lo è altrettanto. Sì, certo, la mia è una sensazione. D'improvviso De Grammont piegò le labbra. Era quanto di più simile a un sorrisetto fosse capace di fare, uguale a un ghigno. E senza traccia di buon umore. Voi comunque sopravviverete all'eclissi della tortuga, nostromo. Crollerà un mondo marginale, tuttavia i gesuiti come voi sono fatti per resistere ad ogni sventura e costruire il futuro. Ruggero impallidì. Voi allora sapete? Balbettò. Certo che so. De Grammont si aggiustò il tricorno che il vento gli stava strappando. E che capitano sarei se non fossi al corrente del passato dei miei uomini? Ma non preoccupatevi comunque. I crimini commessi dalla Chiesa non li addosso ai suoi singoli esponenti. Involontariamente Ruggero compresse il petto in un sospiro di sollievo. Le armi di ricatto di Duval erano spuntate. Restava a turbarlo la questione della schiava. Pensò che fosse il momento di approfittare della disponibilità di De Grammont per parlarne. Ebbe però una remora di troppo. Prima che lui aprisse bocca, il capitano alzò il tricorno in gesto di saluto e si allontanò zoppicando. Il suo lungo mantello grigio spazzava la tonda. Ruggero tornò alla chiesuola, accanto alla quale si teneva Macari, una mano sul timone per aiutare Levert. Il primo ufficiale, appena vide il portoghese, gridò: «Finito di contemplare il panorama, ci sono 1000 cose da fare, c'è il vento, la vela di maestra che va spiegata, che cosa aspettate, per Dio?» «Ma avete ragione», borbottò Ruggero, e vide Duval che oziava e gli gridò: «All'assegno le mura di maestra!» Il contromastro si riscosse e ripeté l'ordine. Gonfia di vento la grande vela, sospinse il brigantino oltre le velocità ordinarie. La sua prua, più che fendere le onde, le scavalcava, vi volava sopra. Il mutin del capitano Addison fu il primo ad adeguarsi a quell'andatura. Il Nuestra Signora de Regla lo seguì. Il resto della flotta faticò a coordinare la velocità, ma poi si piegò alla consegna. Una ventina di velieri si gettarono sull'oceano, quasi fosse una pista podistica. Facevano a gara per superarsi. Quando vide il Neptune alla sua altezza, Ruggero gridò alle Bond, che stava sul mascone di prora e si lasciava inzuppare dagli spruzzi: «Vecchio mio, Siete delle lumache! Perché non vai sotto coperta ad asciugarti? E le bonde al canto suo agitò minaccioso la pipa spenta e grondante. Quanto ci scommettiamo che il Neptune arriva alla isola della vaca prima delle Ardì? Cigolate da far paura, rischiate di ribaltarvi, la vecchia carretta ha già dato quanto poteva. Presto, prestissimo cederà e vi ritroverete voi altri tutti in acqua. Porco d'un diavolo, di un dio, di un cane! A noi ci toccherà salvarvi. Lo scambio di battute scherzose continuò a lungo mentre i due brigantini gareggiavano per sopravanzarsi. Gli equipaggi ridevano, profondevano forze. Fu un momento di vera gioia, una sintesi del meglio della vita piratesca. E terminò, senza vincitori né vinti, quando il Neptune e le Ardì dovettero rallentare la corsa per non lasciare alle spalle le altre navi. Un grido, proveniente dalla coffa di Mezzana, raffreddò gli entusiasmi. «Fregate a poppa via!» urlò l'uomo inerpicato lassù. «Tre! Sono i francesi!» Ruggero si portò sotto il castello, magari torvo, anticipò la sua domanda. «Non so che cosa diavolo vogliano. Se speriamo di costringerci a rientrare, quei signorotti non hanno cannoni, scafi o soldati a sufficienza. Forse intendono partecipare ai conciliaboli della Isa della Vaca», suggerì Rogerio. Macari fece un cenno d'assenso. «Ah, lo penso anch'io, rimarranno delusi una seconda volta. Ormai non c'è avventuriero che, prima di addormentarsi, non sogni le ricchezze di Campece». De Grammont emerse nel quadrato, zoppicò verso la chiesola, prese un cannocchiale e lo puntò verso le fregate, aggiustò il fuoco fino a vederle con chiarezza. Rogerio valutò che era il momento giusto per lasciare il pontile inavvertito. I veliri del re di Francia, malgrado i cannoni che caricavano, erano veloci e avevano risalito l'intera flottiglia. Merito di tecnologie nuove messe a punto nei cantieri di Brest e Saint-Malo. Tutti gli occhi erano puntati a babordo. Il portoghese se ne approfittò e spinse il piccolo uscio del quadrato ufficiale. Non fu visto da nessuno. Quasi per istinto individuò la stanza in cui era rinchiusa con lei che considerava sua moglie di diritto. La porta non era chiusa a chiave e, appena lo vide, la schiava lanciò un grido e nascose il corpo nudo sotto le coperte del letto a baldacchino in cui giaceva, piccolo come minuscolo era l'ambiente. Rogerio portò l'indice alle labbra. «Zitta, non ci scoprono!» Sedette su un angolo del letto e rassettò i lenzuoli sul corpo dell'amata. «Come stai? Come stas?» le chiese. Lei, al solito, gli lanciò lo sguardo di un cerbiatto impaurito. questi erano Bad Sector con brano Telemetry. Ora si ripassa alla controinformazione con una notizia per quanto riguarda l'aggiornamento di compagni sul processo ai compagni delle CCF in Grecia. Durante la 34esima udienza del quarto processo contro le CCF, Vassilis Foukas era tra i testimoni dell'accusa. Vassilis Foukas è stato uno dei principali membri, un ufficiale, della mafia giudiziaria. Ha lavorato come presidente della Corte d'Appello per il caso del gruppo 17 novembre e come investigatore per i casi 17 novembre, ELA e 1 maggio. Per il caso dell'omicidio di Michailis Perekas e quello dello scontro armato a Gizi ad Atene, dove Christos Tsoutsouvis e 3 poliziotti sono morti. Foukas si è mostrato a suo agio in aula, visto che ha familiarità nel contesto. I compagni delle CCF sono accusati di un attacco incendiario contro la sua abitazione nel 2009, dopo aver testimoniato durante l'esame dei giudici di essere rimasto terrorizzato dall'attacco e che se non fosse stato per lui sua moglie sarebbe potuta morire. È toccata ai compagni delle CCF porre delle domande ed ecco che la sua vecchia attitudine investigativa si è risvegliata. Visto che le domande dimostravano che lui abusò del suo potere giudiziario accedendo a dichiarazioni di testimoni eccetera eccetera, ha iniziato ad indisporsi e ha cominciato ad essere sgarbato nelle risposte. Ad un certo punto, quando si è sentito messo all'angolo, ha interrotto la testimonianza e ha cercato di lasciare l'aula prima che le domande fossero terminate. E lì i compagni delle CCF lo hanno attaccato. Uno di loro è saltato oltre i banchi verso di lui e gli ha tagliato la strada. Un altro gli ha tirato un bel ceffone. Prima che partissero gli altri compagni, gli agenti sono riusciti a farlo scappare. Prima di ciò l'ex procuratore aveva detto: non ho nulla da rispondere, e si era sentito rispondere da un compagno: coglione, abbiamo bruciato la tua casa, la prossima volta lo faremo esplodere. La corte si è ritirata e ha deciso che il testimone dovrà essere richiamato in modo da completare le domande. E così si fanno le cose. E questa era la notizia che arrivava dalla Grecia, presa la stessa oggi dal sito di Contrainfo, per quanto riguarda l'aggiornamento al processo dei compagni delle CCF. Lo ricordo, ci sono altre notizie che arrivano dalla Grecia in questi giorni, però non vengono pubblicate sulla reazione perché è un continuo scazzo tra compagni, sigle e roba varia. Quindi se non le vedete pubblicate sulla reazione è per questo motivo. Interessa notizie come questa oppure notizie come attacchi, ma non notizie di scazzi. Ora ascoltiamo un altro brano, loro sono Cubanette con il brano Hit Song e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti. La camera dal soffitto molto basso appariva pulita, sebbene umida come tutti gli ambienti di bordo. Vi si respirava l'odore acre del catrame, ma ciò era inevitabile. Prendeva luce da una finestra che si apriva sotto il giardinetto poppiero. Una candela nella sua gabbietta spenta era posata sul tavolino. Di fianco c'erano una scodella con avanzi di cibo e un bicchiere d'acqua mezzo pieno. Un secchio cilindrico dipinto di bianco fungeva da orinatoio, una rarità su un veliero dove si defecava e urinava in mare, e solo gli ufficiali avevano gabinetti privati nella galleria di poppa. «Vedo che ti trattano abbastanza bene», commentò Rogerio. «Con Peppe Canseco saresti stata peggio. Hai bisogno di qualcosa?» Non ebbe risposta. «Suppongo allora di no, mi fido di Exkemeling, sembra una brava persona, ti raccomanderò a lui perché tu ottenga il trattamento migliore possibile. Non credo, del resto, che il cavaliere de Gramont voglia farti del male. Questa stanza, penso, ospiti di solito le prigioniere di riguardo da liberare dietro il riscatto. Lui è già sceso a visitarti?» La donna seguitò a tacere. «Beh, immagino di no», riprese Rogerio, «è troppo malato. Ora però devo andare, la Isla della Vaca non è distante e presto mi cercheranno». Le sorrise e allungò una mano per toccarle i capelli. Lei si ritrasse. «Hai ancora timore di me?» mormorò il portoghese con benevolenza. «Scoprirai al momento giusto quanto ti voglio bene, quando saremo marito e moglie». Inebriato da quegli occhi grandi e lacrimosi, Rogerio risalì sul ponte. Magari lo vide e lo intermellò con durezza. «Ah, eccoti qua, gesuita. Mi chiedevo dove ti fossi cacciato. L'isola della Svaca sei in vista. C'è da imbrogliare le gabbie e da mollare la catena». «E le fregate?» «Sempre là, ci seguono come ombre, approderanno anche loro, questo è certo. A terra faremo i conti». La Isla della Vacca non era completamente disabitata. Vi si erano insediati già da decenni alcuni avventurieri che, sposate donne indigene di Spagnola, avevano messo su famiglia. Gestivano adesso il vecchio porticciolo, stretto all'ingresso ma ampio come insenatura, che in passato aveva accolto i nomi più famigerati della filibusta. Quando aveva cominciato ad essere meno frequentato, gli isolani erano tornati alla caccia. La metà di loro erano bucanieri, oppure si erano dati alla pesca. Varie barche malandate lo testimoniavano, e malgrado l'ormai ventennale decadenza, a tutto favore della Isla de Gonave, più settentrionale, più grande e più prossima alla Tortuga, i moli e le strutture portuali erano rimasti intatti e potevano accogliere una flotta abbastanza numerosa. I vecchi magazzini, invece, erano stati sommersi dalla vegetazione e le poche baracche degli abitanti nascoste dai tronchi. Non c'erano scogli, ma piuttosto banchi di fango in progressiva estensione. Il passaggio tra i loro lembi, comunque, restava ancora decisamente agevole. Logicamente, non tutti gli equipaggi scesero a terra, solo comandanti, ufficiali e membri anziani delle ciurme. Anche le fregate di Luigi XIV gettarono l'ancora un poco a largo, però, e per il momento non se ne distaccarono scialuppe. Il caldo umidissimo era opprimente. Rogerio, sulla stessa barcaccia che trasportava de Gramont, Macari d'Exkemeling, ebbe la spiacevole sorpresa di trovarvi anche Michel Truan, l'ex nostromo del Conquiro, invisibile fino a quel momento a bordo delle Ardì, ebbe la sfacciataggine di fargli l'occhiolino. «Lieto di rivederti, gesuita. Noi ci siamo incrociati spesso negli ultimi tempi. Ognuno di noi aveva da fare. Io a prora, tu a poppa, ciascuno il suo. Chissà perché? Non ne ho idea», rispose Rogerio irritato. Sospettava che Truan avesse dormito tutto il tempo, nascosto in qualche anfratto il brigantino. L'altro sogghignò. «Forse uno di noi due aveva da fare sotto coperta. La stilettata non ha l'armò Rogerio più di tanto. Se Troano intendeva minacciarlo o ricattarlo per i suoi rapporti con la schiava, il credito di cui godeva era molto inferiore al suo. Durante le operazioni per salpare dalla tortuga e quelle per sbarcare alla isola della vaca, Macari non aveva nemmeno cercato quello che, in teoria, era il suo secondo ufficiale. E inoltre Rogerio voleva regolarizzare quanto prima la sua posizione con la prigioniera africana. E in casi estremi, se Troan fosse diventato davvero fastidioso, restavano le arti da sicario di Levert per toglierlo di mezzo. A terra furono accolti da un avventuriero decrepito che sedeva sulla culatta di un cannone arrugginito circondato da una torma di bambini meticci. Aveva una gamba di legno e gli mancavano l'occhio destro e il braccio sinistro. Le Bon, François, l'eterna pipa tra le labbra, aveva raggiunto Rogerio, le mani in tasca, gli indicò col mento il mutilato. Un tempo è stato un filibustiere valoroso, era con Montbart e poi con Michel e Basca a Maracaibo. Non ne so il nome vero, ma lo chiamavano l'Aragni, forse perché perdeva zampe ogni battaglia. Ha fatto una fortuna con le sue mutilazioni. Si è ritirato qui con la sua moglie Arawaka. In anni migliori gestiva una taverna e un bordello. Adesso penso che vivacchi. Quando l'Aragni vide De Gramont più saldo sui piedi del consueto, abbandonò l'affusto e claudicò a rendergli onore. Il cavaliere fu cordiale. Si lasciò trascinare fino a una capanna fatta di semplici pali distanziati che reggevano un tetto di paglia. Sotto c'erano 3 tavolacci e lunghe panche. A fianco, tra i palmizi, un'indigena anziana tentava di riaccendere, dopo chissà quanti lustri, una stufa di mattoni. Altri isolani accorrevano tra bucanieri arawakos. Di tutti i comedores della vacca, 20 anni prima numerosi, se ne vedevano le rovine invase da cespugli e dai rampicanti, era rimasto solo quello. Intanto erano sbarcati gli altri comandanti. Esuberante, come sempre, Lorenzio andò a sedersi di fronte a De Gramont e gridò al taverniere: «L'Aragni, vecchia canaglia, immagino che ciò che ci darà da mangiare faccia schifo!» «Mica tanto, capitano! Qui di cinghiali ce ne sono ancora, riusciamo noi ad accendere il forno, resta il prosciutto!» «E comunque da bere ne avrai, porco demonio! Non pretendo grandi vini, ma qualcosa di forte, sì! Beh, di rum ce n'è, e anche di gin, che fanno gli inglesi! Ma da parte ho delle bottiglie di vino spagnolo di Rioja che tengo in una grotta da un 20ennio. È ancora bevibile, credo!» La voce della ragniera allegra, come se l'arrivo della flotta lo avesse riportato alla sua gioventù. «E allora vino, pane e prosciutto per tutti i capitani, a cominciare dal cavaliere De Gramont, e gin e rum per i nostri uomini! Mi sa che questa volta esaurirai i tuoi barili!» «Oh, ne sarei molto felice, mi capitano!» I comandanti si erano disposti lungo le 3 tavolate, ufficiali, sottufficiali e semplici marinai erano invece rimasti in piedi, in atteggiamento rispettoso, disposti a circolo. Dopo qualche sbuffo incongruo il forno si accese e in breve si sparse attorno il profumo della carne abbrustolito che, chissà per quale alchimia, si fondeva benissimo con quello intenso e inebriante dei fiori. Una lama di luce verticale fendeva il tavolo centrale, passando per un pertugio nella tettoia, e alimentava il clima sereno. Lorenzio si spostò e batté la mano sulla panca mentre guardava Rogerio. «Cosa fai lì impalato, portoghese? Siediti con me. Non mi dirai che non ti piace il prosciutto.» L'esitazione di Rogerio fu vinta da uno spintone di Le Bon. Scavalcò la panca e vi sedette. Di fronte aveva De Gramont, che conversava fitto con il capitano Godefroy. Alla sua destra stava Lorenzio, più cordiale che mai, alla sinistra Lesage, distante e compassato. Quando arrivarono vino e liquori, seguiti a breve dal cibo, il conciliabolo e Benizio. E naturalmente il primo a prendere la parola fu l'uomo nero De Gramont. «Amici, compañeros, disse, rivolto agli altri capitani. Come sapete, si va a Campeche. Non mi risulta che ci siano grandi ricchezze a parte legname e genere di consumo, tuttavia vi risiedono famiglie importanti legate alla nobiltà spagnola e hanno sicuramente in casa ori, argenterie, tessuti preziosi e schiavi in abbondanza. Il bottino non mancherà. Vigneron dal fondo del tavolo obiettò: abbiamo per mare una flotta mai vista e di sicuro altre navi saccheranno nei prossimi giorni. So per certo che un paio di comandanti inglesi hanno lasciato la Giamaica e stanno venendo qui. Non è il caso, forse, di scegliere una preda più ricca? Veracruz, per esempio. L'abbiamo già saccheggiata una volta, conosciamo il terreno. La città è una città che ha i magazzini sempre pieni. La risposta venne da Lorenzillo, inghiottì in fretta il boccone e scosse il capo. Prendemmo Veracruz per via di terra e non possiamo ripetere il colpo. Hanno avamposti e fortini nei boschi e galeoni da guerra nel porto. Il forte di San Juan, memore della lezione ricevuta, ha girato i cannoni sull'abitato. Sarebbe una sconfitta, se non certa, molto probabile. Quanti galeoni? Suppongo non più di un paio. Sì, ma Veracruz è sempre battuta dal vento e flagellata dalla pioggia. Ci presenteremo in ordine sparso per mare. È difficile conquistarla e per terra ormai impossibile. De Grammon allora tagliò corto. Campeche, vi dico. Se ne sta sicura, fiduciosa nella cinta che tra qualche mese la circonderà e che adesso invece è piena di varchi. Fece una pausa, beve un sorso di vino e si asciugò le labbra in un fazzolettino ricamato simile a quello che comunemente portavano le donne. Non immaginatevi una città miserabile, a case in pietra e persino ville. Le dame d'alto rango sono ricoperte di gioielli. C'è addirittura un teatro! E se le ricchezze collettive sono poche, quelle individuali sono molte. C'è però anche un vice governatore, Don Felipe della Barrera y Villegas, brontolò Vigneron, avrà anche la sua scorta. Abbiamo annientato altre scorte e catturato altri funzionari. E Merida è lì vicino e lì gli spagnoli sono tanti. Campeche conquistata diventerà un buon ostaggio per tenerli a bada. Seguì un lungo silenzio occupato dal mangiare e dal bere. Rogerio fu colpito dai modi garbati dei comandanti pirati. Nessuno masticava i cibi con la bocca aperta. Nessuno sorbiva le bevande mettendo risucchi fastidiose. L'osservanza delle buone maniere era rispecchiata dagli abiti, forse troppo ricchi di trine e con un'eccedenza di sete, però simili alle vesti dell'aristocrazia europea. I capi dei Fratelli della Costa davano l'impressione di ispirarsi non a modelli banditeschi, lasciati semmai ai silenziosi bucanieri, bensì a quelli della nobiltà di Parigi, Londra o Madrid, quasi aspirassero col furto a diventare nel nuovo mondo una futura classe dominante. Però una differenza c'era e fu manifestata, superate le riflessioni, dall'intervento del capitano Lesage. Si metta ai voti. Naturalmente possono votare tutti i presenti, inclusi gli appartenenti agli equipaggi. Campeche o Veracruz? Chi è per Campeche? Alzi la mano. Le braccia a favore della meta si levarono soverchianti. Direi che non ci sono dubbi, facciamo la controprova. Chi vorrebbe andare a Veracruz? Mani si alzarono, ma il numero irrisorio. Benissimo, commentò De Grammont. Restiamo qui una settimana in modo che eventuali fratelli ci raggiungano, poi salpiamo per Campeche. L'assemblea è chiusa a meno che qualcuno non abbia altri argomenti di discussione da sottoporci. Era il momento che Rogerio aveva atteso e temuto. Sollevò l'avambraccio. Io, disse con un groppo in gola, per un fatto personale. Para mi personalità. Il cavaliere lo guardò con accigliato stupore. Anche gli altri astanti erano sbalorditi. Ebbene, parlate, esortò l'uomo nero di Grammont. Ahahahah. Rogerio affrontò uno dei momenti più difficili della sua vita con sfacciataggine. Si alzò in piedi, beve un ultimo sorso di vino e iniziò a dire, il boccale ancora in mano: «Onorevoli capitani, e voi, fratelli della costa tutti! Ero compare di nozze di Pepe Canseco imbarcato sul Nettuno e morto prima di sposare una schiava che aveva liberato. Ora lei si trova in prigionia sulle Ardì e rivendico il diritto di succedere a Pepe in veste di marito e di...» Rogerio fu interrotto da un fatto imprevisto che lo fece ricadere sulla panca. Da mangrovie nodose erano emersi il conte di Frontignan, Hubert de Lambercy e una decina di uomini armati di moschetti e balestre che peraltro tenevano alzati. Circondarono il comedor, il conte fece sfiorare le travi del pavimento il suo tricorno irto di piume. «Cavaliere», disse a De Grammont, «avrei l'ordine di arrestarvi, ma preferisco discutere». «Saggia preferenza», ribatté beffardo il capitano. «Prima che uno solo dei vostri sgherri e sbirri riuscisse a caricare l'arma che porta, sareste sgozzati dal primo all'ultimo a partire da voi stesso. Pochi minuti dopo le vostre fregate sarebbero colate a picco e dovreste immaginarlo. E adesso discutete pure, signor imbecille!» In effetti i pirati attorno al tavolo avevano messo mano alle daghe, alle sciabole e alle pistole da cui erano appesantiti. Alcuni bucanieri, senza perdere tempo con i fucili, impugnavano le clave con cui erano soliti sfracellare il cranio a cinghiali, bovi, tori e montoni feriti. Tutti quanti sghignazzavano. I soldatini del re, lindi e agghindati, parevano pecore circondate da un intero branco di lupi. Il conte di Frontignan impallidì e gli uscirono di bocca frasi smozzicate. «Cavaliere, il nostro sovrano vuole Luigi XIV, chiede, e Spagna non può essere attaccata in questo momento, ne andrebbe la posta in gioco, è molto alta, per questo il governatore della Tortuga mi ha mandato a farvi desistere dai vostri propositi criminali e chiaramente un ultimo tentativo». De Grammont squadrò il damerino. «Non ho capito un'acca, però una cosa mi è chiara, voi non vi chiamate Luigi XIV. De Lambercy bofondiò la lingua secca. «No, in effetti. E allora andate in Francia a trovare il re e tornate con ordini scritti, solo allora vi darò retta». «Beh, il signor de Chiusy rappresenta il nostro sovrano in questi mari. Deve essere molto virile, dove non arriva lui manda i suoi coglioni a conferire con me», e scrosciarono risate. De Lambercy arretrò di un passo, appariva più sicuro di sé, restava il pallore sotto la parrucca bianca. «E la vostra ultima parola?» «L'ultima? A meno che qualcuno dei presenti non abbia qualcosa da aggiungere». Lorenzillo vuotò l'ennesima coppa di vino e ruttò sonoramente. «I nostri arawakos cominciano a patire per la mancanza di carne umana ben salata. Questa signoria illustrissima potrebbe essere davvero un bocconcino. Se volete, ammiraglio, dico agli indigeni di metterlo allo spiedo con la ciurma di contorno. Conditi con la cipolla, forse riuscirebbero ad essere saporiti». Tutti i presenti applaudirono. De Grammont fece un sorrisetto e disse: «No, meglio che costui torni alla tortuga a riferire. Ora conterò fino a tre, al mio tre. Ammazzateli tutti e fate scempio dei loro corpi. Uno...» Non arrivò nemmeno al due. De Lambercy e i suoi uomini se la diedero a gambe. I fratelli della costa si piegarono in due dalle risa. «Forse non vedremo nemmeno più le loro vele», De Grammont tornò alla serietà di sempre. Fissò Rogerio, senza ostilità ma anche senza calore. «Signore, mi stavate dicendo qualcosa relativo ad una mia schiava?» Il portoghese, rimasto in piedi durante il battibecco con l'aristocratico, ricadde a sedere sulla panca. L'energia di poco prima era svanita. Malgrado ciò, affrontò lo sguardo del cavaliere e disse con passabile fermezza: «Mi capitan, la schiava africana che ospitate nel quadrato stava per sposare Pepe Canseco, mio compare di matrimonio. Ritengo che sia mio diritto averla in moglie». Purtroppo no, giovanotto. La replica di De Grammont non fu particolarmente astiosa, fredda, semmai. Il capitano stava tagliando una fetta di carne e lì si concentravano le sue attenzioni. Avreste ragione se le nozze tra Pepe Canseco e la donna si fossero concluse, ma non è avvenuto. Lei è tornata la schiava che era, io il suo padrone. Dopo Campece, bella com'è? Voglio venderla a Port Royal. Per questo me la porto dietro. E Rogerio parlò con voce strozzata. La tenete di fianco al vostro alloggio? Certo. Non voglio mica che le sue carni morbide si deteriorino nel gavone dove stanno gli altri negri. Insisto, è mia, disse Rogerio De Grammont, che aveva finito di mangiare e si nettava le labbra in un tovagliolo. Posò sul gesuita uno sguardo di finto rammarico. Se aveste perduto un braccio destro sarebbe vostra, se vi avessero accecato un occhio oppure se un arto importante vi fosse stato reciso da una cannonata avreste diritto alla schiava. Non è accaduto nulla di simile. La negretta quindi è mia e io ne faccio ciò che voglio. Contro la sua volontà? Quale volontà pensate che abbiano le femmine? Le schiave, poi! Tanto varrebbe attribuire una volontà alle scimmiette. Attorno al tavolo si ridacchiò ex Kemening, che stava in disparte e fece sentire per la prima volta la propria voce. Capitano! Non giudicate male Rogerio De Campos, è con noi da poco, non conosce le regole. Oh, ma io non lo giudico mica male, rispose De Grammont con la sua aria da gran signore burbero indulgente. E infatti, io ho già perdonato questa sua uscita inopportuna e attendo di vederla all'opera a Campecce. Se si comporterà con valore può darsi che venda a lui invece che sul mercato la schiavetta che pare piacergli. Vi fu chi applaudì frasi tanto magnanime. Rogerio, imbarazzato, si sentì in obbligo di fare un inchino di ringraziamento. Il resto del pranzo si svolse normalmente. Fu fissato per il giorno dopo un secondo conciliabolo riservato ai soli capitani per definire rotte e strategie d'attacco. Terminato il pasto, Rogerio fu attorniato mentre si avviava al molo da Hades e Zone da Lorenzio. Entrambi molto cordiali. Beh, forse non era il caso che esponeste in pubblico la vostra ossessione, disse il primo, ma tant'è, De Grammont sembra averla presa bene. Ora però vi raccomando un atto di coraggio per riscattarvi completamente ai suoi occhi. E Rogerio, atto di coraggio? E quale? La risposta venne da Lorenzio, leggermente ebro e sovraeccitato come sempre. Te lo dico io, gesuita, non possiamo tenerci le fregate di Sua Maestà alle costole fino a Campece. Non possiamo nemmeno colarle a picco. Si tratta di navi del nostro re. E strizzò l'occhio. Comincia a capire adesso? No, confessò Rogerio. Eppure non è difficile, porco d'un diavolaccio. Un incidente potrebbe inchiodarle qui, un fatto causale, non imputabile a nessuno. Ne succedono tanti per mare, anche alla fonda. Tutti i vascelli sono dei colabrodo puzzolenti, navi da guerra incluse. Rogerio si era arrestato a poca distanza dal pontino in rovina. Il vento, gonfio del sentore dell'acqua salata, gli scompigliava i capelli. Incidenti di che tipo? Uno dei più tipici è un cannone che si scioglie e sfonda le fiancate, spiegò Addison. Poi ci sono gli incendi imprevisti, capaci di divorare l'albero maestro in un baleno, o le falle, che nessuno aveva notato. Un allargamento della stiva, se lo squarcio è grande, non è mica facile da controllare. Due volte su tre, il veliero con la picco. Rogerio, fenni smarrito, iniziò a capire. Volete che io vada a sabotare le tre fregate? Non tutte e tre, solo l'ammiraglia. Quella su cui è imbarcato dell'Anversier e quel mezzo finocchio. Le altre due navi resteranno dove si trovano. E quando dovrei farlo? Prima che salpiamo, ovviamente. Dunque, entro 5 o 6 giorni. E posso avere chi mi aiuti? Certo, ma un paio di uomini, non di più. Addison sembrò calcolare la manodopera occorrente. Meglio un solo marinaio di vostra fiducia. Nessuno deve essere al corrente del sabotaggio. Il lavoro va fatto di notte, quando la guardia è minima, rapido ed efficace. Lorenzidio batté sulla spalla di Rogerio un colpo così violento che lo squilibrò. Non immagini il credito di cui godrai dopo, gesuita. De Gran Monti terrà in palmo di mano e avrai molte più possibilità di soddisfare i tuoi desideri. Ma lui ne era al corrente? Certo che lo è. Il piano lo ha concepito in prima persona. Certo, non aveva pensato a te. Coinvolgerti è stata un'idea mia. E perché? Proprio io. Lorenzio, decisamente ebro, mimò con le mani un uccello che volasse basso e sussurrò enfatico, malgrado la voce roca: perché tu sei invisibile. Sembri non avere nessuna personalità, eppure ti innamori. Giungi a sfidare un avventuriero dopo l'altro pur di avere la tua preda. Sei silenzioso e ti si nota poco. Ogni pirato fa il chiasso che può e cerca di emergere, invece tu sei diverso. Messo alla prova dimostri acume e coraggio, e tuttavia non ti si fa caso. Domi persino le tempeste quietamente, un vero gesuita, nascosto e operoso. Vero, aggiunse Addison. Nessuno meglio di voi potrà insinuarsi su una nave nemica e sabotarla. Ho notato che i vostri passi non fanno rumore, nemmeno sulle asse di una tolda. Nessuno è più adatto a un'operazione di sabotaggio. Rogerio rifletté mentre la salsedine gli cominciava a irritare gli occhi. Erano valutazioni sincere oppure semplici adulazioni per spingerlo ad un'azione dall'esito incerto? Nel ritratto comunque in parte si riconosceva. Lo rimandava a immagini diverse dal contesto: chiostri ombrosi, arcati, frasi bisbigliate ai confratelli sotto le volte, fino al momento che preferiva dimenticare. «Accetto», disse, «ma di compagni me ne servono due». «Quali?» chiese Lorenzio. «Uno è Leverti, il sicario e timoniere delle Erdi. L'altro lo sceglierò più tardi, un uomo di fatica». I due capitani, dopo un breve sguardo reciproco, annuirono. «Bene», disse Lorenzio. «Una sola raccomandazione. Quando verrà il momento di agire sulle fregate francesi, non dovranno esserci morti nemmeno uno. Bisognerà pure annientare le sentinelle per sabotare il Graal de Lis. Passi per le sentinelle, ma nessun ufficiale o sottufficiale. In caso di crimine più grave della Francia, ci manderebbero contro non tre fregate, ma un'intera flotta. E per la filibusta, già minacciata allo stremo delle forze, sarebbe la fine. Mi hai inteso, gesuita?» Rogerio annuì. «Farò come dite. Aspetto il segnale per agire». «Non tarderà!» E Lorenzio scoppia a ridere. «Ah! Ma cosa facciamo qui? La guardia ai pesci, digerito il mangiare indispensabile, viene il momento migliore, quello di bere. Torniamo alle capanne. Per gli ultimi sorsi pago io». «No, io!» ribatté Addison. «Tocca a me. Niente affatto. L'onore deve essere mio. Se volete strapparmelo, messere, vi conviene impugnare la daga». I due capitani diedero sfogo alla loro ilarità, presero in mezzo Rogerio e lo ricondussero all'abitato mezzo distrutto che, per un attimo, stava vivendo una seconda insperata giovinezza. Il futuro era molto più incerto. We'll be right back. Questi erano Interface con il brano Angels in Disguise. Ora si ripassa alla controinformazione. Non è proprio controinformazione, è un testo che ho scritto ultimamente. Nasce da un'esigenza di far uscire qualcosa in merito al punk. Una cosa che già avevo intenzione di fare durante le cosiddette feste di Natale, con una diretta speciale su questo tema, poi non è stata fatta per vari motivi, e quindi vabbè, dopo due mesi quindi ho deciso di scrivere qualcosina che andrebbe pure approfondita ancora di più, però comunque almeno buttare le basi. Allora, il testo si chiama Punk, due parole non proprio fuori dal contesto. In quanto sito anche di una radio via web, dove durante le dirette d'azione non si parla esclusivamente di controinformazione, ma di tutto quello che può essere trasmesso in una radio di un certo tipo, quindi anche musica, volevo spendere due parole su quello che è il movimento punk e la sua metamorfosi avvenuta negli ultimi 15 anni, almeno in Italia. Parole che avevo in mente di scrivere già da tantissimo tempo, ma siccome non lo reputo un argomento così importante come la controinformazione, ho ritardato a farlo. Ma eccoci qua. Fare la storia del punk la trovo inutile, quindi parlerò più specificatamente delle differenze tra il movimento punk di fino a 15 anni fa e quello odierno. Lo farò senza l'arroganza del vecchietto che ha vissuto quei bellissimi e ripetibili anni insieme a molte persone, compagni, con cui ci relazionavamo continuamente e ad ognuno ha portato il suo contributo essenziale nella crescita degli altri. Ma penso che comunque qualcosa vada detta. Partiamo da una certezza: il punk è morto. Questa frase, per cui si è spesso dibattuto fino ad un decennio fa, oggi è la cruda realtà. All'epoca, se qualcuno diceva questa frase, ci si incazzava e non poco. Avevamo ragione a farlo, perché quelli che si trovavano più dentro a quel pensiero di vita si sono fatti il culo i chilometri di viaggio e rimesso quei pochi soldi che avevamo a disposizione per portare avanti le nostre idee. Oggi il punk è vivo solo nei modi di agire, di vivere e di comportarsi nella quotidianità di persone che vengono da quell'esperienza, fatta di incontri, progetti di autoproduzione, organizzazione di serate benefit per i detenuti e fanzine che non parlavano solo di musica. Il pango odierno, invece, o quello che ci vogliono propinare come tale, non solo manca di tutto quello che molto faticosamente si era costruito negli anni precedenti, ma non è vivo nemmeno nel genere musicale che lo ha caratterizzato sin dai primi anni 70. Tanto per intenderci, quello che a fine anni 80 veniva definito grindcore, ora viene definito crust. Oltre alla bugia sul genere musicale, anche quello sulla sua derivazione. Il grindcore di quegli anni, suonato anche da chi aveva idee più libertarie, era monopolio di band che appartenevano all'area metal, un'area quest'ultima molto confusa ideologicamente e molto spesso con ideologie nazifasciste. Quindi un cazzo a che vedere con il punk. Il punk odierno, tra 3.000 virgolette, è privo di contenuti, è integrato nella vita borghese e vive solo quella gioia di fare musica e concerti senza il minimo significato. Non voglio fare bacchettone, ci sta anche la serata di puro divertimento, ma qui sembra la norma. L'unico obiettivo sembra la voglia di esibizione dall'alto di un palco davanti al pubblico. Sick. All'epoca si cercava di eliminare i palchi dove era possibile, proprio perché non ci doveva essere nessuna differenza tra chi suonava e chi guardava. Scrivere e cantare la musica che facciamo è modo per ragionare su un mondo assurdo che ci circonda e proporre poi agli altri le nostre conclusioni, naturalmente opinabili quando si vuole. Non abbiamo verità assolute da proporre, ci sembra però importante continuare a ragionare in un certo modo su temi che, volente o nolente, ci toccano da vicino. Questa citazione è presa da un'intervista fatta dai compagni dei Pirati dell'Etere all'epoca alla storica band Yatrox, band italiana. Questo bene o male era il punk, una rete di rapporti internazionali che a differenza di oggi non erano stati stretti per scambiarsi favori, tu suoni qua ma poi io vengo a suonare là, ma per organizzare iniziative e benefit. Band che arrivavano a Napoli, io parlo di Napoli perché è la situazione che conosco e ci ho fatto parte, al vecchio TNT occupato, o in altre città italiane, grazie alla collaborazione con i compagni stessi dei Pirati dell'Etere, con cui spesso si organizzavano incontri e concerti benefit. Dalla Spagna, Germania, Francia, Inghilterra e Stati Uniti arrivavano band che non prendevano una lira, all'epoca non c'era l'euro come moneta, perché le serate erano benefit per i compagni anarchici detenuti oppure per stampare manifesti e volantini. Ci si muoveva senza pagare i biglietti del treno, caricandosi tutti gli strumenti addosso, con il pericolo di arrivare tardi perché ti fermavo la Polfer, che è la polizia ferroviaria, oppure se ti andava proprio bene, al massimo scendevi dal treno mettendo a rischio l'ora di inizio delle iniziative. Ora no, ora esiste lo scambio di favore tra band per fare la tournée. Non ci si muove col treno, ma si prendono in affitto i camper o la TAV, perché si deve viaggiare comodi e dormire, non su un tappeto di una palestra o su un palco col sacco a pela, ma sul lettino con tanto di lenzuola pulite. Si fanno i benefit, ma le band pretendono soldi di viaggio e affitto dei camper. Sono gli unici a trarne beneficio delle serate benefit tolte le varie spese. Qualcuno potrebbe pensare che parlare di questo tema su un sito di controinformazione anarchica è inutile. Io la penso diversamente, perché certe cose fino a qualche anno fa hanno camminato di pari passo e buona parte dei compagni anarchici di una certa età arriva da quella esperienza, compresa il sottoscritto. Inoltre, organizzare benefit con certe band o con i fashion, con tanto di crestine alzate per la serata, spillette e magliettine con la cerchiata per poi non vederli da nessun'altra parte, ma soprattutto con cui non hai nulla a che parlarci se non di musica, io non so quanto ne valga la pena. I soldi per i compagni detenuti o per stampare manifesti, volantini e giornali possono essere tirati su in tanti altri modi che non sto qui a specificare. Con questo ci tengo a chiarire che non ho parlato facendo una generalizzazione, ma del buon 80%. Quindi qualcuno si ingazzerà e qualcun altro si strapperà gli spikes, le spillette e le magliettine della rabbia. Ma di fatto, purtroppo, il punk è morto. A Francesco Pennello, Radiazione. E questo era il testo, per fare un attimo alcuni chiarimenti su cos'era il punk, su cosa doveva essere e cosa non è oggi. Forse in futuro ci sarà un approfondimento anche sul tema, per ora lasciamo questo scritto e poi si vedrà. Ora ci ascoltiamo un brano degli Spam Beats, nemmeno farlo apposta, You Are No A Punk, e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti, l'ultima Tortuga, e poi si finisce la diretta di Oggi di Radiazione. Rogerio fece cenno a Bamba di smettere di remare e di lasciare scivolare la scialuppa sotto la poppa del Goatuli presso il timone. Giunti all'altezza giusta, Lever lanciò un rampino che agganciò la ringhiera del giardinetto. Il portoghese salì per primo, Lever lo seguì. Dal terrazzino fu facile issarsi in cima al castello. Mancava poco all'alba. E di lì a breve la flotta dei pirati sarebbe partita dalla isola della Vaca in direzione di Campeche. Le si erano aggiunti due capitani inglesi provenienti da Port Royal, entrambi su golette, e un paio di americani che, transitando in quei mari, avevano avuto notizia della spedizione. In tutto 1300 uomini e una quarantina di cavalli. Adesso però tutti dormivano, uomini e animali, in attesa della campana che li avrebbe messi in movimento. La grande lanterna del Gloarduli era accesa, però il ponte era deserto. I due marinai di guardia erano radunati a prua, mentre l'ufficiale di turno, che Rogerio riconobbe per De Ravensi, ronfava della grossa, avvolto nel mantello alla base della biscaglina che scendeva nel quadrato. Nessun rumore, a parte quello ovvio delle onde, degli scricchiolii emessi dagli scafi di ogni velieri. Che facciamo? Bisbigliò Levert indicando De Ravensi. Non possiamo scendere senza svegliarlo. Rogerio parlò con voce altrettanto bassa. Tagliagli la gola. Un colpo netto, in modo che non possa gridare carotide recisa senza complimenti. Levert nel buio parve trasalire. Nostromo, hai gli ordini? Gli ordini sono di non ammazzare nessuno. Lo so meglio di te, rispose Rogerio, che aveva un proprio disegno in mente, complicato e a lungo termine come tutto ciò che concepiva. Le alternative sono due: o sgozzare questa canaglia oppure tornare indietro. Non vedo altre vie d'uscita. Lo si potrebbe imbavagliare. Avrebbe il tempo. tempo di lanciare un grido e saremmo scoperti. Stordirlo, correremmo un rischio eccessivo. Levert non era persuaso. Lorenzio non ne sarà contento, il cavaliere ancora meno. Non ne sapranno nulla. Si salpa tra meno di un'ora, no? L'importante è che portiamo a termine la nostra missione. Dopo, il Guatulis affonderà e con esso le prove. Rogerio guardò il cielo. Sbrigati adesso, abbiamo pochissimo tempo, fai il tuo mestiere. Mi raccomando, un taglio chirurgico che non spanda troppo sangue. Dopo un'ultima esitazione, Levert scese la biscaglina, estrasse dalla cintura il pugnale dalla lama lunga e sottile che gli spagnoli chiamavano misericordia. Premette il palmo della sinistra sulla bocca del francese e con la destra gli segò la gola da un orecchio all'altro. Gravensì spalancò gli occhi, ma non poté dire nulla. I fiotti di sangue colarono in silenzio sul ponte. «Bene!» sussurrò Rogerio Levert, mentre questi asciugava il pugnale nel cuoio degli stivali e riponeva la lama nel fodero da professionista dell'omicidio. «Adesso si tratta di mandare a piccola fregata. Hai qualche idea?» Il timoniere indicò la lanterna. Si estrae il cero acceso e lo si fa rotolare fino alla vela di maestra in modo che prenda fuoco. «Ma che dici? La vela è ammainata. Ci sono alla base dell'albero rotoli di corde e barili, più catrame, ovunque altamente combustibile. Troppo tempo!» Rogerio scosse il capo. «Tutto ciò non si accenderà come uno zolfanello. Meglio usare un sistema collaudato, scendere nel corridoio dei cannoni e scioglierne il più possibile.» «Ma dovremmo vedercela con gli artiglieri.» «Credi che poi gli artiglieri passino la notte sul loro affusto? Lo si fa solo in caso di battaglia imminente. Di norma, sulle navi da guerra i cannonieri riposano col resto dell'equipaggio.» Senza ascoltare ulteriori obiezioni, Rogerio scese la biscaglina cercando di non far rumore. I marinai di guardia erano ancora a prora e probabilmente, più che conversare, sonnecchiavano. Fu attento a non scivolare nel sangue di De Ravensi, che si spandeva intanto sulla tolda. Trovò subito il boccaporto che conduceva al corridoio dei cannoni. Come aveva supposto, sotto la luce fioca prodotta da un'unica lanterna accesa non si vedevano artiglieri ai pezzi. Per colmo di fortuna, le bocche da fuoco erano legate alle finestrelle non da catene, bensì da corde. Fu facile reciderne i vincoli con i coltelli. Lasciati liberi di abbattersi contro le pareti in una decina di cannoni, Rogerio disse a Levert: «Basta così, rientriamo in fretta. Prima però gettiamo la salma di De Ravensi fuori bordo.» «È indispensabile?» «Direi di sì. Tra poche ore scopriranno il sangue, ma non il corpo. Cercheranno anzitutto il cadavere. Vedrai, sarà divertente.» Il negro Bamba li aspettava sotto la fune pendente del grappino, con i rami sollevati. Una luce pallida all'orizzonte, sotto un cielo in cui ancora il buio incombeva, annunciava l'alba. Bamba attese che i due incursori fossero saliti sulla sua barca, poi iniziò a remare a ritroso diretto al molo della Isla della Vaca. «Tutto bene, signori?» «Tutto benissimo!» «Voga più in fretta che puoi.» Si inerpicarono sulle ardì proprio mentre la campana richiamava gli uomini sul ponte al primo raggio di sole. Rogerio fu aiutato da Margarita di Uval. Truan, ritto accanto al boccaporto centrale, indirizzava gli uomini chi allargano chi alle vele. I gabbieri si stavano già inerpicando sui pennoni per sciogliere i giunchi e dispiegare i rettangoli di tela. «Missione compiuta!» chiese Macari. Rogerio aveva il fiatone. «Sì, è nessun incidente. Il Grad lì sembra intatto, fece quell'altro. Pura apparenza, monsieur. Non potrà uscire dal porto, Benone. E adesso andate a fare il vostro lavoro. Su ogni vascello della flotta si udivano rintocchi di campane, tanto da comporre una specie di concerto dissonante. Gli argani stridevano mentre sollevavano le ancore, spinte da uomini con la schiena nuda e già sudata, malgrado i rigori del mattino. Primo a muoversi verso l'uscita della rada fu il Neptune, che non forzò la natura, attese che il Leardy passasse in testa. Sul molo sbrecciato della vaca gli avventurieri anziani, circondati dalle loro famiglie, sventolarono i cappelli. Una settimana di sosta dei pirati alla tortuga avevano alleviato il declino del loro scalo. Chissà quando si sarebbe presentata di nuovo un'occasione simile. D'improvviso, dal galeone Gloire d'Ulysse, che cercava di salpare a sua volta, partì un colpo di cannone. Il proiettile si perse in acque profonde. La fregata Molloy Ormeggi però sbandava. Le altre due navi del re limitavano, indecise, rimbombò una seconda cannonata. «Che fanno?» chiese Macari, corso all'impavesata. «Ci sparano addosso!» Rogerio al suo fianco sogghignò. «Ci provano, signore. Non scommetterei sul loro successo.» E in effetti, appena si fu distaccato dal pontile, il Gloire d'Ulysse esplose letteralmente. Le sue fiancate volarono in pezzi, la tolda cedette, l'alberatura si inclinò e cadde. Dalle murate volavano in acqua le artiglierie, travolgendo ogni cosa sotto la loro spinta. Il frastuono degli schianti era assordante. Nel giro di qualche minuto, scossa dalle onde, la fregata si tramutò in un relitto e minacciò di affondare tra pareti di schiuma. Le altre navi regali si fermarono per calare le scialuppe e salvare i naufraghi. Macari, divertito, strizzò l'occhio a Rogerio. «Ma qualcosa mi dice che questo disastro abbia a che fare con la vostra spedizione notturna, non mi inganno, vero?» «Oh no, che non vi ingannate, signor!» rispose il portoghese sorridente anche lui. «Il capitano sarà molto soddisfatto, andate a riposarvi ora. Un turno di sonno, ve lo siete meritato!» Quando Rogerio risalì in coperta 4 ore dopo, la flotta aveva ormai preso il largo e si era lasciata alle spalle la Isla della Vaca. Dirigeva verso nord. Tanti bastimenti sul mare, a vele spiegate gonfie di vento, erano uno spettacolo che aveva qualcosa di grandioso. I ponti, gli alberi, i pennoni formicolavano di marinai, le prore, ognuna con la propria polena, sirene, pesci fantastici arcuatue, statue di Nettuno armate di tridenti, fendevano le onde. I canti passavano da una nave all'altra, intonati da filibustieri indaffarati e febbrili, ansiosi di tornare in battaglia e di affrontare le mani nel loro altrui. Tra tutti prevaleva la bamba con le parole del cavaliere de Grammont che nessuno aveva scordato. «Ai arriba, ai arriba, ai arriba, ai arriba, ai arriba, ai re, ai arriba, ai re. Io non soy marinero, io non soy marinero, su capitan. Rogerio fu inebriato dalla scena che aveva davanti agli occhi: il mare che lo aggrediva alle nari con il suo profumo acuto e inconfondibile era loro, non c'era dubbio. Era dei fratelli della costa, gli unici che senza amarlo troppo, tantissimi lo odiavano addirittura, sapessero convivervi. Fu distolto dalle sue fantasticherie dalla voce aspra e ironica di Macari. «Ben svegliato, Nostromo! Adesso, se permettete, farò ricorso alla vostra perizia. I braccioli del tagliamare reggono a stento. cercate un carpentiere rafforzato. Inoltre abbiamo parecchia velatura inutile. Il belvedere, per esempio. Finito il lavoro a prua, provvedete a ammainarlo. Lasciate invece il controbelvedere. Sarà sufficiente a darci spinta. Rogerio memorizzò le indicazioni e corse a eseguirle. Si sentiva pieno di energie, come il resto dell'equipaggio. Si andava verso la gloria e l'ardire. A lui poco importava della ricchezza. Gli interessava di più un incarico ben eseguito. Da gesuita, i superiori gliene avevano fatto apprezzare il valore intrinseco. Varcata la metà del ponte, un incontro con Truan smorzò la sua spinta. «Dove stai andando, portoghese?» chiese il bretone con un sogghigno. «A occuparmi dei braccioli del tagliamare. Io sono il secondo ufficiale e ho altre priorità. Se gli ordini mi vengono da più in alto, posso ignorare le vostre!» E Rogerio scartò Truan e si calò a prua sotto il buon prezzo. Vide un carpentiere già preoccupato della scarsa solidità dei braccioli e lo chiamò a sé e fece lo stesso con i marinai che nei paraggi erano intenti alle manovre. Il bretone gridò qualcosa che Rogerio non udì. Lo considerava al pari delle pulci che si staccavano dalle gambe e dal dorso ogni sera. Un fastidio che, al momento opportuno, sarebbe bruciato sulla fiamma di una candela. La prua delle Ardì dava grandi emozioni. La chiglia si abbassava fino a inabissarsi e poi si rialzava. L'esperienza in altre parti del brigantino non era altrettanto eccitante. Sul ponte le scosse si avvertivano meno. Rogerio, però, bagnato, fradicio, era felice. Quello era il mare. Lui gli teneva testa, cavallone dopo cavallone. Per un uomo libero non esisteva condanna migliore. Sfidare l'acqua e le sue insidie, i suoi misteri, fu uno dei rari momenti in cui si sentì rappacificato col mondo e non pensò alla schiava. Fu una pausa che però durò pochissimo. E con questa ultima lettura di Tortuga di Valerio Evangelisti si conclude oggi la diretta d'azione. Ricordo i prossimi appuntamenti con la radio e quindi la diretta d'azione. Uno è per venerdì, dove venerdì 7, dove ci sarà solo controinformazione e musica. Invece per il continuo della lettura di Tortuga si parla per lunedì 10 marzo. Ricordiamo anche gli indirizzi utili per radiazioni, la mail radiazione@audistici.org, dove potete mandarci qualsiasi tipo di comunicato scritto, anche consigli sui libri da leggere. Stiamo quasi terminando Tortuga, anche quindi chi segue le letture può dare qualche consiglio sui libri da leggere prossimamente su Radiazione. Oppure il blog, il sito dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, radiazione.org. Lo ricordo che Radiazione già da qualche giorno è disponibile in due lingue, sia quella italiana che in quella serbo-croata. C'è un banner sulla sidebar dove quando ci cliccate sopra vi indirizza direttamente alla pagina del sito di Radiazione in lingua serbo-croata. Potete sul sito di italiano di Radiazione potete inoltre riascoltare le dirette d'azione attraverso i podcast nella sezione ascolta le dirette d'azione, oppure attraverso la pagina download scaricare un bel po' di materiale, manifesti, opuscoli, cd e quant'altro. E chi si offende? È un fedente. Quindi con questa ultima frase vi lasciamo con un brano dei Barkansky e Loop Stemwalker. L'appuntamento è per venerdì prossimo. We'll be right back. the end of your journey. I told you you couldn't run from your past forever. Radio Azione.